Dolce morte, io te nelle pene, averti lontana, fa scorrere il sangue inverso, te che mi divori l'anima, invece del cibo e del tempo perso. Il tempo perso, guardando attraverso uno specchio bugiardo, verso il sangue dai miei polsi, sul verso, tu che prepari come me la tomba, morendo in rima, vorresti per l'occasione essere pure bellissima. Pure bellissima. Bene, papo, sì, la perna, la. Mentre la notte si dimentica, noi che vogliamo una morte identica. Vogliamo il cimitero dei poeti, il cimitero dei poeti, dei poeti. Scrivo così per questo, questi versi perfetti, mentre il giorno ci ricorderà, gli altri negano la nostra vita che verrà, nell'aldilà, nell'aldilà, unita nel cielo. Scrivo così, una sorpresa di nuvola, per parlarti, stavolta per davvero. Scrivo così, una sorpresa di nuvola, per parlarti, stavolta per davvero. E ne parlo sì, la dolce morte, quella quando un fiore cadendo fa memoria, la cruda vita, quella quando un ghigno ridendo disincanta, anche le più belle storie, le mie sinapsi condannate a non parlare, sembrano i tuoi silenzi e i visioni che rumore fanno, due cuori a pezzi, se poi cantano muti sti pezzi, mentre la notte sembra volare, volare. Dolce morte, io che nelle pene, averti lontana fa scorrere il sangue inverso. E ne parlo sì, a verna, la dolce morte.